Vi saluto, vi ringrazio di essere così numerosi a questa nostra iniziativa che è stata pensata in collaborazione dell'azienda di soggiorno di Bolzano e all'insegna all'interno della rassegna Un Natale di Libri, che da qualche anno viene realizzato in concomitanza appunto del mercatino di Natale per dare anche un aspetto più culturale all'avvento. E in questo la biblioteca è stata coinvolta molto volentieri con il suggerimento anche di Lorena Monforti, che è la giornalista che questa sera ci accompagna nella presentazione nel libro di Paolo Cognetti, che è qui con noi e che saluto e ringrazio di essere presente. E abbiamo pensato appunto in primavera di presentare questo libro, non sapendo ancora che sarebbe poi stato anche vincitore di un premio così prestigioso come il premio Strega. Eravamo contentissime di questa proposta perché ci avvicinava molto anche spiritualmente a quello che è il nostro mondo. Non mi dilungo oltre, ma volevo dirvi questo, che Paolo Cognetti mi ha colpito personalmente perché lo ritengo una persona innamorata della vita. Ha un percorso di studi, di ricerca personale che spazia dalla matematica alla letteratura americana, alle montagne, alla natura, e nello stesso tempo scrive dei libri, è una bella penna e scrive dei libri fantastici. Quindi lascio la parola ai nostri due ospiti. Vi avviso se gentilmente potete spegnere o mettere in silenziatore il cellulare, perché tutte queste nostre iniziative noi le riprendiamo con un registratore e poi le mettiamo in linea per chi non è riuscito a partecipare o vuole ascoltare insomma quello che abbiamo fatto, organizzato e non in sua presenza. Quindi vi chiedo cortesemente di prestare attenzione un attimo al discorso cellulare, suonerie varie. La biblioteca per il periodo natalizio rimarrà aperta, tranne nei giorni consueti delle festività, e quindi il servizio continuerà a essere erogato, e poi ci rivedremo nel 2018 con tante altre nuove proposte. Lunedì prossimo, alle ore 18, ci sarà la festa di Natale del Trevi, quindi ci saranno cori, orchestre, e alle 18.30 in questa sala premieremo i giovani che si sono laureati in quest'anno con una tesi di indirizzo di interesse locale, e ci saranno anche, verranno anche premiati dei giovani scrittori che hanno partecipato a un concorso dell'Associazione Scrittori Aldo Tesini. Basta, lascio la parola a voi e cedo il microfono a Lorena Monforti. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio il pubblico qui presente in sala, ringrazio la biblioteca Radio Augusta per aver ospitato questa iniziativa, ringrazio l'azienda di soggiorno. Ecco, vi ricordo che alla fine di questo incontro sarà possibile acquistare delle copie del libro di Paolo Cognetti, e qui c'è il magnifico premio Strega. Ecco Paolo, allora, vincitore due volte quest'anno per lo Strega Giovani alla sua quarta edizione e per lo Strega Vero e Proprio, che è uno dei principali, forse è il premio letterario in Italia più importante, sì. Nonché sei entrato anche nella finale del premio Rigoni Stern. Sì. No, però, ma prima ancora, i primi ad avermi premiato, ci tengo a dirlo essendo qui, è stato il premio ITAS. In maggio, premio ITAS, che è storico premio per la letteratura di montagna, presieduto per 30 anni da Mario Rigoni Stern, adesso dallo scrittore Enrico Brizzi. Sono stati i primi ad accorgersi di me, quindi riconosciamo Enrico Brizzi, quello del libro Enrico Brizzi scrisse Jack Frusciante a quei tempi, ma adesso è diventato soprattutto uno scrittore di cammini, di sentieri. Ecco, allora guarda, sei appunto la tua 200ª presentazione, quindi spero di non farti domande banali. E quindi 300.000 copie, sei rimasto in vetta come, no, per un karma per tanto tempo. Detto questo, inizio subito con una prima domanda. Come sei diventato scrittore? Ah, beh, questa è una storia per me appassionante. È un'origine che risale all'adolescenza, risale agli anni in cui uno cerca di capire chi è, o forse la sua personalità viene a galla anche senza che lui lo voglia. Io dovevo essere un matematico, tutto in me cospirava fin dall'infanzia per farmi diventare un matematico. Mio padre, prima di tutto, che mi allenava con indovinelli, enigmi fin dalla più tenera età, e poi la scuola, per cui il mio percorso scolastico è stato ben definito da sempre: il liceo scientifico, la facoltà di matematica, sembrava quella la mia strada. Poi è successo un imprevisto, e l'imprevisto sono state le ragazze. E sono sempre le ragazze che portano la letteratura. Ho capito che questa è una costante anche dei più grandi scrittori, molto più meritevoli di me. E quindi, ecco, l'irruzione dell'amore con tutto quello che questo comporta, nel mio caso un grave confronto con la mia timidezza, la mia incapacità di esprimermi, di dichiarare il mio amore, mi ha portato, ecco, a innamorarmi di certi scrittori e poi a mia volta a provare a scrivere. Tutto è iniziato lì. Poi la strada è stata lunga, sono passati, io ho 39 anni, adesso tra un mese 40, quindi sono passati più di 20 anni da quella volta. Okay. Allora, e c'è uno scrittore in particolare che ti ha influenzato oppure ti ritieni immune da influenze? No, per carità, altro che immune, sono stato influenzato da molti e non ho mai smesso di sentirmi un allievo dei miei maestri. I maestri sono cambiati negli anni. C'è stata un'epoca di un grande innamoramento per la letteratura americana e anche se tanti li ho amati, come io ho avuto un amore per gli scrittori trasgressivi, per cui da Bukowski, Kerouac, eccetera, però forse loro non sono stati maestri, nel senso che non ho mai provato a scrivere come loro, perché io non ero così. Invece quello che veramente ho cercato di emulare per tanto tempo è stato Carver. Carver è uno scrittore che ha prodotto tanti allievi, anche perché è stato uno scrittore molto generoso, e ci sono scrittori bravi che però quando li leggi ti danno un timore reverenziale, non proveresti mai a cercare di imitarli. E invece ci sono scrittori che ti spingono a cercare di scrivere, non so se voi come lettori avete questa esperienza, e Carver per me è stato uno di questi. C'è uno che quando lo leggi, dopo che hai finito un racconto, ti dici: avrei voglia di scriverne uno anch'io. A me ha sempre prodotto questo effetto, e lui è stato uno. Poi c'è stato un grande amore per Hemingway, e lui è un altro che, ecco, ti cambia un po' le idee sulla scrittura. Come tutti, nell'adolescenza ero partito da un'idea di scrittura che dovesse essere ricca, abbondante e il più possibile una dimostrazione delle tue capacità intellettuali, una scrittura difficile. Questa è una visione, secondo me, molto giovanile. E invece poi a un certo punto incontri Hemingway e scopri che una scrittura semplice può essere un punto d'arrivo di un grande lavoro e può essere una scrittura alta. E questo appunto ti scombussola un po'. Non sono stato certo il primo a essere scombussolato da Hemingway. Un altro l'ho scoperto dopo e si chiamava Mario Rigoni Stern, e quindi arrivare a Rigoni Stern dopo aver fatto questo percorso ha significato anche, per esempio, accorgersi quanto Rigoni Stern fosse un amante di Hemingway. Se tu leggi Il sergente nella neve insieme a Addio alle armi, ti accorgi di quanto questi due libri sono parenti uno con l'altro, di quanto quello scrittore fosse anche un lettore. E lui è stato l'ultimo maestro in ordine di tempo. Per me ha rappresentato anche un ritorno alla letteratura italiana dopo un lungo giro nella letteratura americana. Sono stato un bravo studente, però finite le superiori ho proprio ripudiato la letteratura italiana come qualcosa che mi era stato imposto in maniera forse troppo... colpa magari di qualche insegnante, sì, non troppo, sì, illuminato. Sì. Penso di sì. Ecco. E poi invece dopo anni in cui la letteratura americana mi era sembrata una grande liberazione appunto dal peso della nostra, invece fortunatamente ci sono tornato. E ci sono tornato attraverso la montagna, attraverso gli scrittori di montagna. Ecco. Ma è vero che tu non usi mai la parola natura, e se è vero con che cosa la sostituisci? Questo svelerò questa diciamo, la domanda è nata da una tua intervista. Sì. A tua volta tu incontri scrittori e nello specifico a Lars Mytting, no? Sì. Questo scrittore norvegese, l'autore di Norwegian Wood. Ma quindi non esiste per te la parola natura, o appunto cosa usi tu? Ma diciamo che con la scoperta della montagna e il desiderio di raccontarla c'è stato anche una grande ragionamento, presa di coscienza sulla lingua della montagna da parte mia. Cioè, quali sono le parole che servono a raccontare la montagna? Quali sono le parole giuste? Quali sono le parole sbagliate? Quali sono le parole che appartengono alla retorica della montagna che sento come veramente invadente, pesante? Quali sono le parole vere per raccontare la montagna? E allora alcune parole le ho tolte. Natura forse è la più eclatante, perché dici, come fai a non usare la parola natura? Non è che non usi la parola natura, è che non pensi il concetto natura, non è che ti impedisci di usare quella parola. Se tu in montagna, cioè natura è la parola di qualcuno che guarda la montagna molto da lontano, e allora pensa, qui città la natura. Ma se tu ci vivi dentro, se tu vivi in una casa tra i boschi, se tu abiti in un villaggio di montagna, non sai più dire che cos'è la natura. Che cos'è la natura? Il legno di cui è fatta la tua casa o il bosco che hai fuori dalla finestra? Il tuo cane da cortile o l'animale selvatico? Ci sei dentro, per cui la parola natura non ha più molto significato e diventa invece un nominare in maniera molto più specifica le cose, dare nomi alle cose. Questo per me è stato un grande insegnamento, proprio partito da rigori esterni. Tu pensa che quando io sono andato in montagna non avrei saputo nominare gli alberi del bosco che avevo davanti a casa, per me era solo un bosco. Tuttora, in maniera un po' pedante, lo devo confessare, quando arrivano a trovarmi i miei amici milanesi in Valle d'Aosta mi dicono, ah, che bello, abiti davanti alla pineta, e io il tono professorale è un po' fastidioso, dico, guarda che non c'è neanche un pino là dentro, è un bosco di abeti e larici senza pini. E per me è stata, ma io lo dico perché per me è stata una gran scoperta, passata per un bellissimo libro di Rigoni Stern che era l'Arboreto Salvatico, in cui lui raccontava tutti gli alberi del bosco dando a ognuno una personalità, e per me è stato proprio prendere quel libro, uscire di casa, andare nel bosco e leggere e guardare, conoscere gli alberi uno per uno e da lì imparare che nome hanno, ma nel nome c'era una storia, c'era un carattere. Ecco, guarda, allora la domanda è questa, insomma, e se tu dovessi redigere e preparare un decalogo di comportamento per chi per la prima volta o comunque va in montagna, tu che cosa suggeriresti? Qual è l'approccio secondo te più? Perché voglio dire, noi siamo ormai, cioè siamo in un luogo in cui io vivo qui da 4-5 anni, ma devo dirti che ho fatto anch'io parecchie gaffe, ma sono consapevole di aver avuto un approccio un pochino semplificante, no, se vogliamo, per cui ho imparato a mia volta, insomma, con il tempo. Ecco, tu avresti un decalogo ideale, decalogo comunque una serie di magari di suggerimenti da dare a chi attraversa, a chi cammina, a chi va in montagna? Ma una è senz'altro questa, di avere una buona guida. E poi questo può significare farsi condurre da uno scrittore, come è successo a me, ma anche farsi condurre da un montanaro in carne e ossa. Ci vuole qualcuno che te la... se non sei un montanaro, se non ci sei nato, ci vuole qualcuno che ti accoglie nella montagna, che ti apre la porta, che te la racconta. Altrimenti il tuo sguardo rimane sempre troppo in superficie. Ecco. E poi c'è questo... c'è quest'idea che a me piace molto e che inizia a essere fortunatamente diffusa, cioè quella di cercare di non lasciare traccia, di andare via dalla montagna senza lasciarti dietro le tue, ecco, forse le impronte dei piedi, sì, non c'è niente di male, ma non più di quello. Sì, e allora molti artisti e filosofi, complimenti innanzitutto, una piccola deviazione, la copertina è bellissima. Ah, poi se volete vi racconto come è una copertina nata. È una copertina che si stacca e spicca su una marea di copertine realizzate anche in digitale, per cui io ho riconosciuto un acquerello vero fatto da un umano e non da un pixel, e volevo chiederti com'è nata questa copertina che ti ha anche portato fortuna, mi sembra. Sì, è importante, no? Beh, dovete sapere che spesso nelle case editrici non si entra nel merito di certi aspetti di un libro. Per esempio, è molto raro che uno scrittore venga chiesto di anche solo di esprimere un parere sulla copertina. E invece a me, sarà che sono nato e cresciuto nella piccola editoria, dove invece il lavoro di fare un libro è molto più artigianale e ti succede di intervenire in tutto. Ecco, l'ho seguito veramente in ogni aspetto questo libro. Alcuni anni fa presentavo un altro mio libro, Il ragazzo selvatico, che è lì, che ha molto a che fare con le otto montagne, perché era il diario della mia prima stagione in Baita, in una libreria di Monza. E venne un pittore, Nicola Magrin, a regalarmi un suo libro, che era un libro assolutamente simile al mio, nel senso che era il racconto di un'estate in Baita e di quello che lui aveva scoperto mentre era lassù, solo che non era un racconto a parole, era un racconto per disegni, per acquerelli. Ed era incredibile che, leggendo il mio e guardando il suo, mi sembrava proprio di vedere le illustrazioni, di vedere due racconti gemelli. Per cui, quando poi è stata ora di pensare alla copertina per le otto montagne, ho subito chiesto in Einaudi se era possibile chiedere un disegno a Magrin. Loro lo conoscevano già, Nicola aveva fatto tutte le copertine di Terzani, quella non è per Einaudi, ma insomma lo conoscevano grazie a quelle. Per Einaudi aveva rifatto le copertine di Primo Levi, le ha fatte tutte lui. E quindi abbiamo lavorato su un po' di idee. Al centro del romanzo c'è questo lago con una baita, e quando gli ho raccontato del lago, della baita, di una scena notturna che c'è al centro del romanzo, è nato questo disegno, insomma, bellissimo. Allora, il libro sarà tradotto, anzi forse è già stato tradotto in paesi come la Germania, sì, l'Olanda, la Francia, e venduto in 33 paesi. Sì. È vero che diverrà anche un film? Questo non è sicuro, nel senso che una casa di produzione ha acquistato i diritti del libro, però tra acquistare i diritti e fare il film ci corre tanto, nel senso che poi fare un film è molto costoso, impegnativo, io lo spero. All'inizio non sapevo se sperarlo, perché ho studiato cinema, ho fatto una scuola di cinema quando ai tempi ho lasciato l'università, e so benissimo che se facessero il film il libro verrà stravolto e probabilmente rovinato dal punto di vista di chi l'ha scritto. Però sarebbe veramente una bellissima avventura vedere nascere un film, quindi potrei sicuramente superare il dispiacere di vedere la mia storia stravolta per vederne nascere una nuova e vedere come verrebbe. E poi all'estero, sì, è uscito in questi paesi tra l'estate e l'autunno, in altri uscirà, in America deve ancora uscire in marzo. Ha avuto una ricezione particolarmente buona in Francia, in Germania e in Olanda, per motivi diversi. Ecco, con l'Olanda certo non condividiamo le montagne, però a girare per i sentieri delle Alpi si sa che gli olandesi si incontrano davvero spesso, sono grandi innamorati della montagna, e con i francesi, con i tedeschi ovviamente invece le dividiamo. E c'è stato qualcosa di particolare che è successo lavorando un po' alle traduzioni di questo libro. Tantissime lingue non le posso controllare, non le posso leggere, però il francese e l'inglese sì, quindi ho potuto vedere com'è la differenza. Con la traduttrice francese, che è anche un'amica, ecco, il lavoro è stato entusiasmante. Quindi la traduzione non come tradimento, ma come fedele. Sì, beh, uno un po' si arrende al fatto che sia un tradimento, questo è un... Hai sofferto. Ma sì, io ho sofferto anche per cose che un traduttore, beh, non ve le sto a raccontare, vai, ve ne racconto una. All'inizio, la prima frase del libro è: mio padre aveva il suo modo di andare in montagna, punto, poco incline alla meditazione, tutto caparbietà e spavalderia. Uno scrittore queste due frasi se le girate in testa per mesi, forse anni, visto che saranno l'incipit del suo romanzo. E quando è arrivata la traduzione inglese c'era: mio padre aveva il suo modo di andare in montagna, due punti, poco incline alla meditazione, tutto caparbietà e spavalderie. E io dico: ma come fai a sostituire il punto con i due punti? Ma capisco che questa può essere solamente un'ossessione mia, quindi ho lasciato perdere fin dall'inizio. Però la questione era che, vedendolo tradotto in francese, tu trovavi un lessico della montagna addirittura ancora più ricco di quello dell'italiano. Il francese ha tantissime parole per la montagna. Ed era molto bello vedere come questo libro veniva, ecco, in un'altra lingua, prendeva corpo, diventava certo un libro diverso da quello che ho scritto io, ma con uno spessore molto bello. In inglese, al contrario, si impoveriva. E ci sono stati dei problemi seri, nel senso che i traduttori, erano due, hanno iniziato a scrivermi, io ho controllato la traduzione inglese, ho visto delle cose che non andavano, ci sono dei problemi gravissimi, tipo in inglese non c'è una parola per dire montanaro, c'è mountaineer, che però vuol dire alpinista, quello che va in montagna, non quello che è nato in montagna. Montanaro in questo libro è una parola fondante, cioè non la puoi sostituire, e l'abbiamo dovuta sostituire con eufemismi come man of the mountains o mountain man, addirittura mi avevano proposto Highlander oppure al peggio in inglese non c'è, in francese alpage va benissimo, in inglese hanno scritto alpine farm o mountain farm, del resto come una parola non c'era. Ti rendi conto, ecco, che in una lingua dove non ci sono le parole della montagna, evidentemente non c'è neanche l'idea della montagna, cioè un lettore inglese non ha la minima idea di cosa sia un alpeggio o di chi sia un montanaro, e quindi ecco, in quel senso il libro è impoverito, il libro chissà come arriverà a un lettore inglese, e poi arriverà ancora più lontano, arriverà in Asia. In Asia lo stanno traducendo, in Cina, in Giappone, in Corea. Beh, allora, e quindi Wilderness ricorreva nella versione inglese, no, perché avendo tolto natura non c'era nemmeno Wilderness. quindi si è caramelizzato ulteriormente. Sì, no? Sì. Allora, no, scusa questo tono un po'. No, va benissimo. Allora, entriamo un po' nel libro. Avresti voglia di leggere qualche pagina? Sì, se vi va, sì, certo. Magari me lo prendo. Sì, ecco, prego. Dove vuoi? Di solito leggo sempre l'incipit, però oggi mi sento più. Partecipe. Sì, partecipe, giusto. C'è un'altra pagina a cui sono particolarmente affezionato. Un attimo che la trovo. Il mio centro del mondo in quegli anni era la casa che avevamo costruito insieme. Ci andavo a stare per lunghi periodi, tra giugno e ottobre, e ogni tanto ci portavo degli amici che se ne innamoravano subito. Così finì per avere lassù la compagnia che mi mancava in città. Durante la settimana vivevo solo, a leggere, scrivere, spaccare legna e vagabondare per i vecchi sentieri. La solitudine divenne una condizione familiare per me, buona ma non del tutto. Ma nei sabati d'estate c'era sempre qualcuno che saliva a trovarmi, e allora la casa smetteva di assomigliare alla capanna di un eremita e diventava uno di quei rifugi che una volta frequentavo con mio padre. Con il vino sul tavolo, la stufa accesa, gli amici che discutevano fino a tardi e la lontananza dal mondo che per una notte ci rendeva fratelli. Il rifugio si scaldava al fuoco di quell'intimità, e a me pareva che, tra una visita e l'altra, ne custodisse le braci. Anche Bruno era attratto dal calore della barma. Lo vedevo spuntare dal sentiero verso sera, portando un pezzo di tomo e un bottiglione di vino. O lo sentivo bussare alla porta quando era già buio, come se fosse normale, là nella notte di 2000 metri, ricevere la visita di un vicino. Se ero in compagnia si univa volentieri alla tavolata. Lo trovavo più loquace che mai, come uno che ha taciuto troppo a lungo e ha accumulato una quantità di cose da raccontare. A Grana restava confinato in un suo mondo fatto di case, libri, camminate nei boschi, idee silenziose, e capivo l'urgenza che lo spingeva a lavarsi e cambiarsi, dopo una giornata in cantiere, ignorare la stanchezza e il sonno e prendere il sentiero per il lago. Con questi amici si discuteva spesso di andare a vivere in montagna tutti insieme. Leggevamo Bookchin e sognavamo, o fingevamo di sognare, di trasformare uno di quei villaggi abbandonati in una cittadella ecologica, dove avremmo sperimentato la nostra idea di società. Solo in montagna si poteva fare, solo lassù ci avrebbero lasciati in pace. Ne conoscevamo altri di esperimenti così, in giro per le Alpi, tutti durati poco e finiti male, ma proprio questo ci dava argomenti su cui discutere e non ci impediva di fantasticare. Come avremmo fatto per il cibo? Come per l'energia elettrica? Come per costruire le case? Un po' di soldi ci sarebbero ancora serviti, ma come ce li saremmo procurati? Dove avremmo mandato a scuola i nostri figli, sempre che ce li volessimo mandare? E come avremmo risolto il problema della famiglia, sabotatrice di ogni comunità, nemica anche peggiore che la proprietà e il potere? Era il gioco dell'utopia a cui giocavamo ogni sera. Bruno, che il suo villaggio ideale lo stava costruendo davvero, si divertiva a demolire il nostro. Diceva: senza cemento le case non stanno in piedi, e senza concime non cresce nemmeno l'erba dei pascoli, e senza benzina voglio vedere come tagliate la legna. D'inverno che cosa pensate di mangiare? E diceva: siete voi di città che la chiamate natura, è così astratta nella vostra testa che ha astratto pure il nome. Noi qui diciamo bosco, pascolo, torrente, roccia, cose che uno può indicare con il dito, cose che si possono usare. Se non si possono usare, un nome non glielo diamo perché non serve a niente. Naturalmente più tardi, o se ci sono domande dal pubblico, non monopolizzerò Paolo Cognetti. Dopo questa lettura emozionante, io volevo chiederti: è un libro dove ci sono le montagne, ma ci sono le relazioni tra gli umani, tra sì, giovani, padri, figli, madri. Ecco, le figure femminili, qualche critico ha detto che tutto sommato le figure femminili sono sullo sfondo e non hanno dei ruoli importanti. Io non sono d'accordo. Tu cosa dici, che sei l'autore? No, non sono d'accordo neanch'io. Sono stato, prima di questo libro, uno scrittore che ha frequentato moltissimo il mondo femminile, la femminilità, i personaggi femminili, non so neanche come definirlo. Nel senso che ho scritto tanto di donne. Spesso i protagonisti dei miei racconti erano donne, ragazze. E questo è il primo libro, la prima storia che scrivo davvero maschile, nel senso che si occupa degli uomini e delle loro relazioni, ed è indubbio che i maschi qui sono in primo piano. E le donne, in particolare questa madre di Pietro, poi la madre di Bruno, poi Lara che interviene a un certo punto diventando la donna di Pietro e poi di Bruno, sono forse un passo indietro, nel senso che hanno meno spazio, hanno meno pagine, ma sono molto presenti nella vita di questi personaggi. Pietro è lì che, quando è bambino, ragazzino, ha queste due figure e si sente di assomigliare tanto a suo padre e di ammirare tanto sua madre. Sua madre è quella che gli spiega quasi subito, quando vanno in montagna, che ognuno di noi ha una quota prediletta, una quota di riferimento che gli assomiglia, e che questa quota corrisponde al nostro carattere. E allora Pietro capisce che la quota di suo padre sono questi 3.000 metri dove non c'è più nulla se non rocce, sorgenti, l'inizio dei ghiacciai, quel mondo delle idee, quel mondo rarefatto in cui non incontri più nessuno, il mondo in cui suo padre è felice perché non ha più gente intorno, perché non ha più preoccupazioni. E invece nota che la quota della madre è molto più in basso, è quella dei 1.000-1.500 metri, la quota del bosco, la quota dei paesi, la quota delle relazioni, la quota di una montagna che non è più verticale, nel senso che guarda verso la cima e basta, ma diventa una montagna orizzontale dove tutto quello che ti interessa sta qui, all'altezza dello sguardo. E Pietro, ecco, è tra queste due montagne. Lui infatti ha la stessa mia quota di riferimento, che sono i 2000 e qualcosa metri, dove finisce il bosco e iniziano i pascoli di alta montagna. Un po' a metà tra la solitudine dell'alta montagna e la società invece della media montagna. E lui si sente condannato a essere come suo padre, perché si sente di assomigliargli quasi irrimediabilmente, quindi essere condannato alla solitudine, ma di ammirare moltissimo sua madre, che fin da bambino gli insegna a coltivare le relazioni, quest'arte che a qualcuno viene naturale, e io quelli li ho sempre invidiati, perché a me ha sempre invece affaticato moltissimo. E allora le persone come me ci devono lavorare sull'arte di coltivare l'amicizia, ed è quello che impara anche Pietro, ecco. Allora, tra i due ragazzi, i due giovani fanciulli, anche se fanciullo è un po' obsoleto come termine, ma ecco, avviene una relazione di scambio, insomma, il ragazzo di città invidia quasi, no, l'agilità, la leggerezza e la sapienza dell'altro, che sembra muoversi come una sorta di, no, di elfo con grande abilità. Tutta però questa abilità e conoscenza, nel momento in cui il ragazzo di montagna, diciamo, vuole fare un passo più grande, quindi vuole divenire imprenditore, la cosa non funziona. Sì, ecco. È così. Questa idea A volte succede che noi scriviamo delle storie che pensiamo di inventare, pensiamo che nascano solamente dal nostro vissuto, dalla nostra immaginazione, e poi con il tempo scopriamo quanto i maestri ci hanno influenzato. Allora succede di ritrovare una storia che tu hai scritto in una storia che conoscevi benissimo e dire: ma certo, io questa idea l'ho presa da qui, e nemmeno te ne eri reso conto. Per quanto le storie che abbiamo amato ci appartengono in maniera profonda, che ci influenzano senza che neanche ce ne accorgiamo. Allora c'è una storia di un racconto di Primo Levi, che è uno dei suoi racconti più belli, si intitola Ferro e sta dentro la raccolta Il Sistema Periodico, in cui Primo racconta della sua amicizia con Sandro Del Mastro, una persona che lui aveva incontrato all'università. Era il 1938, erano appena uscite le leggi razziali. Primo Levi, che è un figlio della borghesia torinese, si sente per la prima volta nella sua vita emarginato in quanto ebreo. Una novità per lui, per quello che gli era successo prima, no? E improvvisamente i suoi compagni, i ragazzi con cui era cresciuto, lo guardano con diffidenza, e lui questa diffidenza la nota e gli fa paura. E allora, come succede in questi casi, fa amicizia con l'unico altro emarginato della classe di chimica, che non è emarginato in quanto ebreo, ma è emarginato in quanto montanaro. È un montanaro della Serra di Ivrea, molto vicino a casa mia, che è stato mandato dalla famiglia a Torino a studiare chimica per fare un salto sociale, ma insomma anche lui, arrivando giù dalla montagna con le scarpe grosse, non riesce tanto a legare con i cittadini. E allora il racconto Ferro parla di questa breve amicizia, perché poi in realtà dura per il breve tempo di questi anni, prima della guerra, 38-39, in cui Sandro e Primo si scambiano quello che hanno da darsi reciprocamente. E quello che Primo ha da dare a Sandro è una chiave per capire la chimica, che è tutta sua. Lui studia chimica in quanto la chimica gli sembra un accesso ai segreti della materia, ai segreti di come è fatto il mondo, di come siamo fatti anche noi. E quindi Primo apre al suo amico Sandro questo mondo di libri, lo aiuta a studiare, lo aiuta a capire le formule, la chimica scritta. Solo che a un certo punto Sandro gli dice: sì, ma tu vuoi veramente sapere che cos'è la materia? Allora devi venire via da qui, ti faccio vedere io che cos'è la materia. E lo trascina in montagna, in Valle d'Aosta, nelle valli che conosco bene io. E allora il racconto si trasforma nell'entusiasmante cronaca di queste cavalcate anche molto sconsiderate, come possono essere l'andare in montagna dei ragazzi, no? A 20 anni ci si perde, si passa una notte fuori, ci si sveglia mezzi congelati e via dicendo. E in questo scambio, ecco, io mi sono accorto di averlo riscritto con l'amicizia di Pietro e Bruno. La famiglia di Pietro, non Pietro in particolare, si sforza di fare studiare Bruno, ma secondo me non è soltanto lo studio, sono molto di più i libri, questi romanzi di mare, questa letteratura che la madre di Pietro passa a Bruno, a mettergli in testa una visione romantica della vita. E forse lui non sarebbe finito ad aprire questo alpeggio, a mettere in piedi questa impresa impossibile, se prima non ci fossero stati i romanzi, no? A dare a un uomo l'idea che un'impresa impossibile è qualcosa di molto bello da intraprendere, a fargli un po' scordare per un momento il realismo della montagna. E invece Bruno ha da dare a Pietro in amicizia l'accesso alla montagna, l'accesso alla montagna che all'inizio passa per le esplorazioni, ma passa anche per la lingua. E c'è un momento in cui Pietro dice: imparavo la lingua della montagna, imparavo i nomi delle cose in dialetto e mi sembravano più giusti dei nomi in italiano, soprattutto, uno su tutti, i nomi degli alberi. Questi alberi che dicevo prima, che in italiano sono al maschile: il larice, l'abete, il pino silvestre, in patois valdostano sono al femminile: la brenga, la pezza, la rula. E il femminile gli sembra più giusto, gli sembra più appartenere all'albero che il maschile. Oppure i versanti della montagna: in italiano non c'è un modo per dire il versante al sole, il versante all'ombra, non abbiamo una parola. Invece nei dialetti delle Alpi sì, in patois si dice la drette e l'anvers, il dritto e l'inverso. E il versante al sole e il versante all'ombra sono due cose importanti se vai in montagna. E poi la barma, una roccia sporgente sotto cui ci si può riparare. In italiano non solo non c'è una parola, devi dire una frase lunghissima per definirla. Il dialetto è semplicemente una barba e tutti sanno che cos'è e sta al centro di questa storia. E quindi ecco che la montagna che Bruno gli trasmette è proprio un segreto di cui lui lo invita a far parte, no? Quindi è un'iniziazione, insomma, sì. Più di quello che il padre aveva fatto, con un altro metodo, un altro approccio, no? Il padre, con questa sua ossessione per le cime, per lui l'andare in montagna è arrivare lassù, non c'è altro da aggiungere, non c'è neanche nient'altro da guardare. È una scuola di determinazione, una scuola di disciplina, e sono cose che hanno un valore, sicuramente non le rifiuto. Però ecco, invece la montagna di Bruno è una montagna, è un mondo, e passa per una conoscenza, non solamente per una disciplina. I tuoi amici della montagna hanno apprezzato il tuo libro? Ci si sono ritrovati o... Gli ho un po' sconvolto la vita questi amici della montagna ultimamente, però devo dire che gli ha fatto piacere, anche perché la vita dei montanari a volte ha bisogno di una scrollata. Il primo è stato Gabriele, che era quasi il protagonista di quell'altro libro, Ragazzo Selvatico, un montanaro di all'epoca in cui scrivevo un po' meno di 50 anni, adesso ne ha 55, che insomma forse è l'ultimo lì dove abito io a fare il montanaro come una volta, cioè a vivere in una capanna, andare su a piedi eccetera. E lui è diventato una piccola celebrità dopo Il Ragazzo Selvatico. Addirittura sono persone che entrano nell'unica libreria del paese dicendo: ce l'avete il libro su Rambo? Lui si chiama Rambo, non vi sto a spiegare perché. Ecco, da essere una specie di eccentrico, anche un po' maltrattato da questa società di montagna che sa essere piuttosto crudele con chi è un po' diverso, invece è diventato una persona con una sua nobiltà anche per i suoi concittadini, e questo è stato un grande orgoglio per me, essere riuscito a metterlo in questa luce. E poi Remigio, che è Remigio nel Ragazzo Selvatico, che è diventato Bruno nelle Otto Montagne, faccio un po' fatica a chiedergli cosa ne pensi. Lo deduco a volte da come sta, da come mi parla, da quello che gli leggo in faccia, ma non so se è possibile parlarne, ecco. Non l'abbiamo mai fatto. Allora, a questo punto, non so se ci sono delle... Io avrei altre domande, ma ecco, chiedo se in sala c'è qualche domanda. Sì. Grazie. Io voglio ringraziarla perché questo libro mi è piaciuto tantissimo. Letto in una notte, dopo aver ascoltato la sua intervista alla 24, penso in febbraio-marzo, secondo me. Quindi già dal testo, dall'intervista, mi era piaciuta l'idea di leggere finalmente un libro sulle montagne che comprendesse anche la parte sull'Himalaya, quindi questo ragionamento, questo vedere la montagna da un aspetto che per noi che viviamo in montagna era molto bello. Mi è piaciuto tantissimo tutta questa narrazione sul rapporto tra Pietro e Bruno, no? Quindi il ragazzo di città, comunque con un certo background culturale, che si relaziona molto con questi ragazzi di montagna, che poi diventano uomini, che poi condividono una certa esperienza. E devo dire che mi sono ritrovato in molte esperienze che ho fatto io in Trentino, avevo una casa, e quindi mi sono sentito molto partecipe rispetto a questa narrazione davvero straordinaria. Quindi voglio solo dire che chi non ha letto questo libro lo faccia, perché veramente grazie spassionato. Allora, io ho vissuto a Milano, Paolo, 13 anni, quindi un lungo periodo, e devo confessarti questo, che abitando in Viale Monza, nelle giornate... C'era la grinta. Sì, esattamente. Quindi ho ritrovato in un passo del tuo libro esattamente una sensazione che io ho provato, no? Un altrove che mi restituiva tutto quello che insomma la città, senza demonizzarla, perché poi la città ha un'altra energia. Tu stesso vivi un po' in città e un po' in montagna, ecco, quindi tu come metropolitano l'energia da dove la trai? Pensa che quella descrizione è un'altra descrizione che uno pensa di avere scritto per primo, i viali di Milano in fondo a cui in certi rari giorni di vento compaiono le montagne, e poi l'ho ritrovata nella Vita agra di Bianciardi, grandissimo libro su Milano da parte di un non milanese che un po' la amava e un po' la odiava. A un certo punto qualche anno fa mi sono chiesto se non era arrivata l'ora di tagliare una volta per tutte con questa città, non con Milano in particolare, ma con la città, e andarmene a vivere in montagna. È un passaggio che non ho mai fatto, non ho mai avuto il coraggio di farlo, ma forse non ho mai avuto davvero la sensazione che fosse quella la cosa giusta per me. Perché so che la montagna può anche diventare una prigione e che la montagna si può anche odiare per chi non ha alternativa, e io non voglio che diventi quello, io voglio continuare a guardarla con occhi pieni di meraviglia e voglio continuare a essere libero di scegliere di stare in montagna. E allora la mia condizione si è diventata questa, cioè di uno che divide la sua vita in due e che trova un equilibrio in un andirivieni. E devo dire che la mia vita in città è alimentata da quelle montagne e viceversa. Per esempio, dopo anni, sono quasi 10 anni che passo 6 mesi all'anno in questa baita, in questo paese che si chiama Estul. Ci abitano 4 persone nelle stagioni, nelle basse stagioni. E dopo qualche anno mi sono chiesto, ma che cosa ci faccio ancora qui? Dopo che ho esplorato tutti i sentieri, conosco a memoria tutti i ruderi e ho fatto amicizia con tutti gli abitanti, sono sicuro che quattro. Questo è il luogo dove posso passare, dove voglio passare il resto della mia vita per 6 mesi all'anno. Perché? Cioè, che cosa mi rimane qui da scoprire? E allora questo mi ha un po' messo in crisi. Forse potevo cambiare montagna, andarmene da quella valle, andare in un'altra e ricominciare da capo l'esplorazione, l'incontro, eccetera. Invece ho pensato che la cosa che allora mi avevo da fare era portare qualcosa di buono in quella montagna, qualcosa di buono che io avevo imparato a fare in città. Io ho lavorato per anni in un circolo culturale, sono stato un assiduo frequentatore dei centri sociali, e comunque l'aspetto di produzione artistica, culturale, musicale della città mi ha sempre appassionato moltissimo. Non è, la città non è il male, la città è anche il luogo dove gli uomini sono riusciti a produrre qualcosa di buono. E allora è nato il desiderio di fare un festival, che ha visto la prima edizione quest'anno, e di costruire un rifugio che sia un rifugio alpino ma anche un centro di produzione culturale, una specie di via di mezzo, cioè, tra un circolo culturale di città e un rifugio alpino. Allora questo mi ha di nuovo dato il desiderio di stare lì, perché lo stare lì ha acquisito un nuovo senso per me. Sto qui non solo perché fare l'eremita non mi interessa più, l'ho fatto, ho visto com'è, e sinceramente lì nella solitudine è un po' come una stanza di lavoro per me. So che nella solitudine trovo la mia concentrazione, trovo la situazione giusta per lavorare, per scrivere, ma non è la stanza in cui voglio vivere, è la stanza in cui voglio andare a lavorare per poi tornare a vivere con gli altri, con i miei amici. E quindi se la montagna fosse rimasta il luogo della solitudine, so che dopo un po' l'avrei odiata, e quindi la sto trasformando in qualcos'altro, in luogo di relazioni, di progetti, di amicizia, e mi piace tanto, ecco. Dunque le montagne valdostane hanno una configurazione geomorfica diversa, sì, da quelle di queste parti, sì. Nel libro i genitori appunto di Pietro si incontrano sulle Tre Cime, che qui sono un'icona ampiamente utilizzata dal marketing. Le montagne valdostane hanno tutt'altra storia, no? Perché anzi tu registri e racconti di paesi fantasma, sì. Qui non si avvisa questo fenomeno, anzi è una montagna altamente antropizzata. Ci sono puntuali, come dire, discussioni su quelli che sono le rare presenze di lupi o orsi che ormai sono tutti abbastanza, come dire, controllati, ma generano panico. E la stessa montagna è ormai, diviene una, un po' un brand, no? Ci sono negozi appunto che si rifanno alla vita alpina, no? Gli sport alpini e la vita alpina, quindi c'è, ricorre questo marketing che a volte è, devo dire, un po' eccessivo per chi ci abita, ma è inevitabile secondo te che poi le montagne si trasformino in questo, oppure, quindi da una parte abbiamo la montagna che si sta spopolando, che cosa ci si deve augurare? Perché esiste, come dire, una terza soluzione, no? È un discorso di cui è un po' ampio, insomma, è molto ampio, infatti si potrebbe fare una serata solo su questo. E te l'ho fatta la domanda perché appunto, oltre a essere invitato a quelli che sono i veri incontri tra scrittori dove si parla di libri, tu sei stato anche coinvolto in tutta una serie, diciamo, di iniziative dove si parla di sostenibilità, di montagna, di sostenibilità e quindi di possibili vie, no? Visto che tu non sei un visionario, perché mi sembra che tu abbia le idee molto chiare, però magari, ecco, qualcuno ti ha chiesto, no, di ti ha chiesto di, hai qualche idea, Paolo? Sto cercando di mettere in ordine una risposta, perché veramente sarebbe un discorso di altra volta la domanda finale. Beh, tutto è iniziato perché da quando è uscito il libro ovviamente mi chiedono non solo di parlare del libro, ma anche cosa ne penso quando viene giù una valanga come l'anno scorso a Rigopiano, cosa ne penso quando uccidono l'orso come è successo in Trentino. Mi è successa una cosa bellissima, che ero andato al Parco Avventura, ve lo posso confessare, un giorno, perché mi piace moltissimo prendere le carrucole, quelle lì dove voli sopra il fiume, e avevo lasciato il telefono in macchina. Torno in macchina, vedo delle chiamate perse ed era un giornale che mi chiedeva, non mi ricordo più di che cosa, e mi ha detto, ma ormai abbiamo chiamato Messner, se non la trovavamo. Bellissimo. A parte questo, sì, sono discorsi di cui io ho il desiderio di occuparmi e sento la responsabilità di occuparmi. Pensa che dopo la vittoria dello Strega, Repubblica, con cui collaboro ogni tanto, mi ha chiesto, scrivici un articolo su come stai, su come è stato, su come ti senti ad aver vinto questo premio, cosa che a me sembrava veramente indegna, cioè prendersi quello spazio dopo aver vinto un premio così, per cui è scrivere un articolo che avrebbero letto in tanti, che Repubblica mi avrebbe messo, che ne so, in prima pagina, in cui io scrivevo di come sto, sono contento, ma non mi sembra veramente una cosa irresponsabile. Invece sento tanto il dovere di fare qualcosa con un periodo di notorietà che hai, con il successo di un libro, cioè o adesso le mie cose vengono lette. Allora la domanda è, che cosa voglio scrivere, che cosa voglio dire, veramente voglio raccontare ai lettori come sto io? Mi sembrava un grande spreco, e allora ho mandato a Repubblica un articolo su un vallone che sta sotto al Monte Rosa, che al momento è minacciato dalla costruzione di un ennesimo impianto di risalita, piste da sci eccetera, e ho scritto un articolo ecologista, ma non militante, nel senso che non voleva assolutamente essere un articolo né aggressivo né polemico, era proprio il pezzo di uno che abita lì, che abita in mezzo ai montanari e che sta cercando di parlare con loro veramente in amicizia. Perché poi, come saprete, in montagna spesso succede che i montanari sono i peggior nemici dell'ambiente alpino, cioè sono quelli che lo vogliono trasformare, usare, eccetera, eccetera. I cittadini invece sono gli ecologisti più puri, tanto che loro vanno lì solamente in vacanza, no? E quindi io, che mi trovo a metà, nel senso che sono ancora un cittadino, mi sa, però vivo in mezzo ai montanari, non posso sicuramente avere posizioni estreme. Sono un mediatore, ma proprio per come la mia vita, che è quella di quello che sta a metà. E allora ho iniziato ad occuparmene, poi mi hanno invitato a far parte del comitato direttivo di Mountain Wilderness, che è un'associazione gloriosa nata negli anni 80 da Messner e altri in difesa dell'alta montagna, e ho accettato con enorme piacere. Quindi mi ci ritrovo dentro in questo discorso, e spesso mi chiedono che cosa penso. Non è per niente facile. L'esempio di questo vallone delle Cime Bianche dove, di cui parlavo è emblematico, perché lì appunto c'è, il Monte Rosa è stato trasformato negli anni in un grande comprensorio sciistico. C'è un sentiero assurdo, nel senso che non ha nessun senso farlo, che fa tutto il giro del Monte Rosa, sono sette valli, diversi giorni di cammino, ma tu cammini per tutti questi giorni sotto le funivie, passando accanto ai bulldozer, eccetera. Non so perché lo fanno quel sentiero, perché è brutto proprio. E un ultimo tratto, un ultimo vallone di questo giro è rimasto intatto per motivi, perché è difficile costruire lì, è un vallone abbastanza impervio, ed è un vallone splendido dai 1600 metri dell'ultimo paese della Val d'Ayas, che si chiama Saint-Jacques, al colle delle Cime Bianche, 3000 metri, sono 1400 metri di dislivello in cui attraversi tutti gli ecosistemi, dal bosco agli acquitrini, all'alta montagna, all'inizio dei ghiacciai. E il progetto è di costruirci funivie e piste da sci. Ed ecco, la cosa paradossale è che si è formato subito un comitato contro la funivia delle Cime Bianche, e questo comitato è formato tutto da milanesi, torinesi, ex valdostani che però abitano in città e hanno mantenuto lì la casa d'infanzia e ci tornano in vacanza, e poi è stato fatto un referendum informale tra gli abitanti del comune di Ayas, che è quello interessato ai lavori, e al 90% sono d'accordo con questi lavori di costruzione della funivia. E quindi non puoi più nemmeno fare arriva il nemico che ci cementifica la montagna, perché il nemico, sempre che sia un nemico, è lì, cioè sono i montanari che la vogliono quella cosa. E allora vedi che il discorso diventa molto difficile, e non puoi più, dico, mi siedo davanti alle ruspe, non ha più molto senso. Piuttosto tocca fare il lungo lavoro di parlare con le persone accanto a cui abiti, cercare di capire come la pensano, cercare di raccontarti come la pensi tu, ed è tutto molto più lento e difficoltoso. In Valle d'Aosta è una montagna molto strana, perché non è nemmeno la montagna abbandonata, per esempio, delle valli del Cuneese, l'estremo ovest del Piemonte o l'estremo est del Friuli. È una montagna in parte turistica, tu dicevi le tre cime di Lavaredo, ma ecco Cervino, che è accanto a dove abito io, è la stessa icona, è finito perfino sul Toblerone, e quindi è una montagna in cui c'è davvero il paese, c'è Cervinia, che penso che sia il più grande obbrobrio che abbiamo concepito in montagna, e accanto, nel vallone accanto, c'è il paese Valser abbandonato con le baite che cadono. E quindi tu queste due montagne, quella dell'abbandono e quella del turismo distruttivo, le vedi davvero una accanto all'altra. Basta attraversare un crinale, affacciarsi di là da un colle e le vedi. Ultima domanda, lo giuro. E tu parli un po' la lingua del Valser? No, il Valser, il Tich è... Che è una lingua germanofona, no? Sì, è germanofona, è la valle di Gressonei dove si parla, era la valle che frequentavo da bambino, quindi da bambino ero molto affascinato anche dal Tich, ho iniziato a imparare qualche parola. Però nella valle dove abito adesso, che è la Val d'Ayas, si parla un patois franco-provenzale. Il Monte Rosa è un crocevia incredibile, perché tu nel giro di queste quattro valli trovi il piemontese, il Tich che è germanofono e il patois franco-provenzale, e si confinano tutti uno con l'altro. Infatti il nome di Bruno, che si chiama Bruno Guglielmina, io volevo scegliere un nome che fosse giusto per lui, e allora ho iniziato a girare per cimiteri, ovviamente vedendo come sono i cognomi dei villaggi, e ho trovato questo cognome che si ripeteva in Valsesia, si chiama Guglielmina, in Val d'Ayas si chiama Guillermin, quindi lo stesso cognome in francese, e in Valle di Gressonei si chiama Villermin con la W, e quindi lo stesso cognome in tedesco. E allora ho detto, questo è il cognome del Monte Rosa, e l'ho chiamato così. Ecco, propongo ancora una volta delle domande, se prima di passare alla... naturalmente il libro è in vendita. Ah, c'è una domanda. Ecco. Scusa se non mi alzo, volevo un ginocchio, Paolo, lo sai. In attesa di avere notizie dello Zetter che ti ho portato, che mi sembra la cosa più importante nel nostro rapporto già da un po' di mesi, anch'io come quel signore molto amabile e colto che ti ha parlato prima, che io conosco, come sicuramente tutti gli altri presenti, ci accettiamo a chiederti una firma o un saluto su una copia approfitto perché non ci vediamo da un po', te lo chiedo anch'io. Ma il punto è un altro, e cioè che abbiamo trascurato, nonostante abbia imparato diverse cose da questo incontro con la tua moderatrice, di parlare di Nepal. Non so se è già uscito quel numero, magari ti prego di parlarne un attimo. Vorrei che tu per favore ne parlassi un secondo, e con la preghiera subito dopo di non stupirti molto se il giornale praticamente concorrente al mio ti ha chiesto qualcosa dopo lo Strega. Noi abbiamo chiesto la stessa cosa alla seconda classificata, quindi pensa che fantasia. In bocca al lupo ancora, fammi sapere dello Zelda e soprattutto dici qualcosa. Sì, molto volentieri. Uscirà, non te l'ho portato perché non è ancora fisicamente reperibile, ma uscirà la settimana prossima questo numero speciale di Meridiani Montagne dedicato al Dolpo, che è una regione nel nord-ovest del Nepal dove sono stato in ottobre. Ho fatto un trekking di 22 giorni bellissimo. È bellissimo perché questa regione è... Intanto forse vi devo raccontare che il Nepal, pur essendo la Mecca degli amanti dei trekking, insomma lì è molto bello perché arrivi e trovi amanti della montagna di tutto il mondo, specie nei mesi della primavera, dell'autunno, del primo autunno, perché sono quelli ideali per i trekking. E c'è un affetto che si percepisce, cioè tu trovi incroci camminatori tedeschi, americani, giapponesi, tutti che vogliono bene a questo paese, ed è molto bello. Però come tutti i paesi di montagna, come tutti i paesi della parte meno sviluppata del mondo, si sta trasformando in maniera rapidissima e non si sa bene che cosa succederà, perché ecco, in un paese dove di colpo arriva la tecnologia, arriva la Cina sta facendo irruzione in tutta l'Asia con i suoi prodotti, con tutto quanto, non si sa veramente per quanti anni ancora il Nepal potrà essere quello che uno vede se ci va adesso. E allora, anche con un certo senso di nostalgia, cercavo una regione che fosse il più possibile intatta, perché anche in Nepal oggi, se vai al campo base dell'Everest per esempio, che è un trekking tra i più frequentati, hai il wifi durante tutto il cammino, e allora trovi la gente che posta su Facebook o Instagram le foto dell'Everest, o che telefona a casa da sotto l'Everest. E quindi questa cosa non mi va, non mi piace. Volevo una montagna che fosse ancora vera, ma nel senso di distante. Volevo una distanza reale da casa mia. E allora c'è questa regione nel nord-ovest che si chiama Dolpo. È distante perché, benché quasi tutto il confine tra Nepal e Tibet sia sullo spartiacque, sull'Himalaya, sulle vette più alte dell'Himalaya, in realtà questo nord-ovest è a nord del Daulagiri, che è una catena di cime tra i 7 e gli 8.000 metri, lunga 120 km, quindi una catena enorme, ed è più simile al Tibet che al Nepal, pur essendo in Nepal. Infatti è un altipiano desertico, mentre tutto il Nepal è molto verde, molto piovoso. Invece sopra, al nord del Daulagiri, non arrivano i monsoni, per cui lì il clima è desertico. È quasi tutto sopra i 4.000 metri, e quindi abbiamo camminato, io e amici con cui sono partito, per 20 giorni tra i 4 e i 5.500 metri, in questo ambiente che è decisamente un deserto d'alta montagna, in cui incontri mandrie di yak. Gli yak vengono usati sia come bestie da soma che per fare il latte, il formaggio e la carne, e poi rari villaggi che più che altro vengono usati nella bella stagione dai pastori e poi abbandonati durante l'inverno. Ed è stato, ecco, per me, come cercavo di raccontare anche nelle otto montagne, andare in Himalaya significa anche avere l'illusione di fare un viaggio nel tempo e riuscire a vedere cosa sono state le Alpi quando io non c'ero. Io sono arrivato nei primi anni 80, ero bambino, insomma la civiltà alpina era già finita da un pezzo, adesso non esiste proprio più. E quindi che cos'era la montagna coltivata, che cos'era la montagna dei montanari che non avevano mai visto una città in vita loro? Questa cosa in Himalaya si può ancora vedere, a me commuove moltissimo, non so per quanto sia ancora così. E poi ecco, c'era un motivo anche letterario, non so se qualcuno di voi ha letto un libro bellissimo che si intitola Il leopardo delle nevi. Peter Matthiessen era uno scrittore americano che scrisse questo libro nel 1978, guarda caso il mio anno di nascita, quindi anche questo mi dava un motivo in più. E il Leopardo delle Nevi è il racconto di viaggio, uno dei più bei libri di viaggio che io abbia letto, di un lungo viaggio in Dolpo. E allora volevo vedere 40 anni dopo che cosa era di quel posto che conoscevo da un libro che ho letto e riletto e amato molto. E devo dire che l'ho ritrovato assolutamente identico, cioè quasi le pietre che lui descrive sono lì una per una, tranne che ora in quelle casupole di pietra, fango e sterco di yak qualcuno ha portato un pannellino solare, e a questo pannellino solare cioè attaccano i cellulari per cercare di andare su Facebook prendendo miracolosamente il campo sulle cime delle montagne. Ma non vorrei farla troppo tragica, è un paese veramente bellissimo e spero in questo il reportage che uscirà tra pochi giorni di averlo raccontato a dovere, ecco. Allora io ringrazio Paolo Cognetti per essere stato qui, averci raccontato, sono abbastanza, sono un po' stordita, quindi speriamo che tu sia ancora qui, avrai modo di visitare, hai visitato qualche museo della montagna di Mestre? No, l'ho visitato. Un scrum proprio con delle divinità nepalesi, quindi sono delle statue che sono state trasportate proprio dal Nepal, quindi sì. È stato visto. Lo ringrazierei Paolo Cognetti con un applauso. Grazie. Qui se volete, chi vuole una firma, un saluto, dove esce questo Meridiani Montagne.